L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta, nella quale parleremo molto di rifiuti, con un piccolo diversivo finale però per un incontro che si è tenuto a Cascina Triulza, quindi all'Expo di Milano, nel corso della settimana su assicurazioni e calamità naturali, tra i tanti temi toccati in quella giornata. Ma iniziamo prima dal rapporto di sostenibilità di CONAI, il consorzio privato costituito da oltre 1 milione di aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi in vari materiali. CONAI riunisce 6 consorzi, già che ci siamo facciamo un ripasso, 6 consorzi di materiali: quello dell'acciaio, che si chiama Ricrea, l'alluminio, che è il CIAL, la carta, il Comieco, il legno, che si chiama Rilegno, la plastica, che è il Corepla, e il vetro, Coreve. Detto questo, sentiamo cosa ci ha raccontato il direttore generale di CONAI, Walter Facciotto, sull'edizione 2015 del loro rapporto di sostenibilità. In questo rapporto c'è una rendicontazione completamente trasparente di quelli che sono gli impatti, diciamo, e quindi gli obiettivi dal punto di vista della sostenibilità, sia della nostra struttura, quindi impatti diretti, e sia i cosiddetti impatti indiretti, che nel nostro caso sono prevalenti, perché riguardano le attività di riciclo e di recupero che noi svolgiamo sul territorio nazionale. Da cosa vuole cominciare? Da quelli diretti o da quelli indiretti? Sicuramente da quelli indiretti, però perché quelli diretti sono legati praticamente al nostro stabile e alle nostre attività, voglio dire, che noi svolgiamo quotidianamente, ma non essendo noi un'impresa che ha attività, voglio dire, importanti dal punto di vista manifatturiero, i nostri impatti diretti sono molto limitati, perché abbiamo solo uffici. Certo, no, infatti, quindi, è quello che fa, sì, che fa specie di solito quando uno ha un'impresa, sì, che presenta rapporto, sì, di sostenibilità, certo, riguarda quell'impresa, sì, e l'azione, sì, che fa. Invece il vostro, sì, vero, dice, sì, impatto, sì, sta su quello che sono non viene lì nel vostro edificio, ma fuori dall'edificio. Esattamente. Ed è per questo che noi abbiamo deciso appunto di fare questa azione, quindi di produrre questo rapporto proprio in questo senso, per dire a tutto il mondo quello che facciamo, soprattutto dal punto di vista del riciclo dei rifiuti imballaggi. Allora, vediamo appunto gli impatti indiretti, che esatto. Come li avete stimati, che tipo di impatti sono? Gli impatti indiretti sono legati allo sviluppo delle quantità di materiale che viene tolto dalla discarica e avviato a riciclo, cioè il nostro compito istituzionale è quello di riciclare, quindi di raggiungere gli obiettivi di riciclo e di recupero a livello nazionale. Noi abbiamo direttamente tolto dalla discarica qualcosa come 3,6 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio nel solo 2014, che significa che tutto questo è stato rimesso nel ciclo, è materiale che è stato rimesso nel ciclo produttivo, invece di essere mandato in discarica. Quindi è lo sfruttamento delle cosiddette miniere metropolitane. Certo, l'economia circolare che finalmente l'economia parte. L'economia circolare, esattamente. Noi siamo un esempio effettivo di economia circolare realizzata nel nostro paese a livello nazionale. E questo direi che già, no? Mettiamo punto, già la stellina. Esattamente, perché questo è, se poi aggiungiamo, perché noi siamo responsabili di comunicare al Ministero, quindi al Governo e al Parlamento, i dati complessivi di riciclo e di recupero, noi dobbiamo dire che il 66% dell'immesso al consumo di rifiuti di imballaggio nel 2014 è stato riciclato. Se si aggiunge la quota di termovalorizzazione, arriviamo a 77,7, quindi un valore nettamente superiore a quelli che sono i minimi di legge, che sono 55% per riciclo e 60% di recupero, e ci collochiamo dal punto di vista del riciclo dietro la Germania. Vabbè. Voglio dire. Consolidiamo, no, perché mi sembra che eravamo lì comunque, sì, no? Sì, non abbiamo perso. No, noi stiamo incrementando questo valore di anno in anno. E lo facciamo nonostante il sistema consortile abbia già ampiamente superato gli obiettivi di legge. Lo facciamo perché riteniamo che possa essere un modello, un esempio proprio di economia circolare, e su questo noi intendiamo andare avanti. L'altro punto è quello dell'eco innovazione. Noi abbiamo dei programmi, in realtà ce li abbiamo già da più di 10 anni, programmi di aiuto alle imprese per la realizzazione di imballaggi più ecosostenibili. Questo è l'altro punto, e ne mancano ancora due. C'è uno che è quello che noi riteniamo che per rafforzare questo mercato sia necessario rendere operativo quello che è una legge dello Stato, che è il Green Public Procurement, che impone alle amministrazioni pubbliche di acquistare prodotti sempre fatti con materiale riciclato. Questa è una legge poco applicata. Noi riteniamo che questo debba essere rafforzato, e la legge debba essere applicata in toto. Dunque, su questo appunto le avrei fatto questa osservazione, sì. La legge c'è, ma purtroppo è poco applicata, quindi qui è soltanto law enforcement, come direbbero gli americani quando vanno in Iraq. E invece l'aspetto degli imballaggi che lei toccava poco fa è forse, direi, un aspetto sul quale si deve insistere, perché non è più il tempo di pensare che gli imballaggi ecosostenibili li fa solo Giorgio Armani, per dire, cioè li fa solo, no, chi è a un livello altissimo. No, anche il produttore di mozzarella che ha un raggio d'azione provinciale poco più può e deve anzi insistere su questo tipo di imballaggio. Cioè usciamo dalla logica del bene di lusso, ecco. Esattamente, noi abbiamo tutta una serie di azioni e abbiamo anche un report da questo punto di vista che dimostra tutte le attività che le aziende fanno per la sostenibilità. Tra l'altro avremo un'ulteriore premiazione perché abbiamo deciso di fare di pubblicare il bando sulla prevenzione, finanziato peraltro con 200.000 euro, che vengono dati alle imprese che da questo punto di vista si sono dimostrate più attente, facendo appunto operazioni di prevenzione sugli imballaggi. Se le cose al CONAI vanno bene, come ci ha detto Walter Facciotto, è merito ovviamente anche dei comuni, che lavorano bene e differenziano bene. Se ne è parlato in settimana alla presentazione del 5° rapporto sulla raccolta differenziata e il riciclo, elaborato in base alla banca dati ANCI CONAI. Una ricerca che ha cercato di fotografare la situazione italiana a tutti i livelli, nazionale, regionale e comunale, su raccolta, avvio dei rifiuti a riciclo ed emissioni di CO2 connesse al ciclo di lavorazione dei rifiuti. Ce ne parla il delegato ANCI per energia e rifiuti, Filippo Bernocchi. I dati base sono tutti dati positivi e soprattutto la positività viene dal raffronto 2013-2014, perché abbiamo sia l'indicatore relativo alla raccolta differenziata, che è aumentato oltre il 3%, abbiamo una percentuale aumentata di effettivo riciclo, e abbiamo oltre il 40% dei comuni italiani che hanno già raggiunto l'obiettivo del 50% di effettivo riciclo. Quindi quello che viene fuori da questo da questa banca dati, dall'elaborazione dei dati che ogni anno affluiscono a questo sistema che è stato creato negli anni da ANCI e da CONAI, è un'Italia che sta andando molto bene. Questo è un dato assolutamente positivo che facciamo bene anche a rimarcare, perché tante volte anche continuando a dare messaggi negativi dovuti alle difficoltà di talune aree in ritardo, penso a talune aree metropolitane come Roma e come Napoli, un po' si scoraggiano anche i cittadini, e siccome per fare un buon riciclo occorre fare una buona raccolta differenziata, e per fare questo occorre un atteggiamento positivo da parte del cittadino, si rischia, a forza di dare messaggi di tipo negativo, a non invogliare quantomeno il cittadino, perché dice comunque sia va tutto male, invece no, comunque sia va tutto bene. Tra l'altro lei ha detto una cosa importantissima a questo proposito, ha detto l'effettivo riciclo, perché poi il cittadino spesso no, si scoraggia pensando che io divido ma poi dopo chissà, e invece i dati ci parlano adesso anche di un effettivo riciclo, non di solo di raccolta differenziata. Sì, finalmente, io sono anni che mi batto, io non vorrei proprio parlare di raccolta differenziata, io vorrei parlare di effettivo riciclo, perché tante volte si è parlato di raccolta differenziata come una parola che al tempo stesso racchiudesse la soluzione, no? Nello stesso significato, c'è il problema dei rifiuti, faccio la raccolta differenziata, ma non era questo, c'è il problema dei rifiuti e attraverso la raccolta differenziata io ottengo il riciclo di materie prime e seconde, questo è il dato positivo. Oggi in Italia siamo a livelli molto alti per quanto riguarda l'effettivo riciclo, 8 regioni hanno già raggiunto l'obiettivo di riciclo al 50% con 5-6 anni di anticipo, perché alcune 7 erano già con 7 anni di anticipo, e quindi diciamo l'Italia si sta avviando a tagliare il traguardo in tempo utile al 2020, perché l'Unione Europea ci chiede di arrivare al 50% di riciclo entro il 2020. Per fare questo però è necessario continuare su quello che stiamo facendo, che il legislatore non crei problemi con interventi a spot che possano mettere in crisi questo sistema, e talvolta si assiste a qualche tentativo di revisione non organica in materia ambientale, e continuare a dare ai cittadini questo messaggio. Noi oggi, il sistema Italia è un sistema all'avanguardia, ha sì dei problemi, ma ben caratterizzati e ben individuati al sud, perché comunque piano piano anche quelli stanno migliorando, perché anche i dati di Roma, i dati di Napoli sono sì negativi, sì in ritardo, però comunque qualcosa si sta muovendo anche lì, e quindi il messaggio è di positività. Bisogna investire molto sulla comunicazione, perché dal comportamento virtuoso dei cittadini che separano bene viene tutto il sistema successivo, quindi riusciamo in questa maniera a ridurre i costi successivi a valle di selezione e separazione del materiale. E non dimentichiamoci che tutto questo serve per passare dalla economia circolare dall'economia lineare alla economia circolare. Esatto. Ora dobbiamo fare una pausa, ricominciamo con l'intervista a Bernocchi tra pochissimo. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, ci ritroviamo, stiamo parlando del quinto rapporto sulla raccolta differenziata e il riciclo, elaborato grazie alla banca dati ANCI CONAI, e ne stiamo parlando con il delegato ANCI per energia e rifiuti, che è Filippo Bernocchi. Abbiamo detto prima come vanno le cose sul piano generale, abbastanza bene, ma tra poco verremo alle dolenti note. Ci sono aree del paese molto sviluppate, altre molto arretrate in questo settore. Ci sono aree da premiare e aree che hanno avuto pesanti sanzioni dall'Unione Europea. Ce la faremo, abbiamo chiesto a Bernocchi, a parificare le cose? I dati dicono che 3.141 su 8.000 e spiccioli comuni hanno già raggiunto il 50% di effettivo riciclo. 8 regioni l'hanno già raggiunte. Noi abbiamo fatto delle proiezioni e immaginandoci un aumento medio in 5 anni dei volumi del 15%, rischiano di rimanere fuori dal raggiungimento dell'obiettivo del 50%, che comunque globalmente come sistema Italia lo raggiungeremo, alcune regioni del sud, che sono principalmente la Calabria, la Sicilia e forse anche la Puglia, insomma queste hanno più difficoltà perché partono da posizioni più arretrate. Sì, da posizioni più arretrate, soprattutto pagano ora il prezzo di mancate scelte, sì, soprattutto di pianificazione, perché vede, se in un territorio io non faccio gli impianti per il trattamento dei rifiuti, è inutile dire ai cittadini che devono fare la raccolta differenziata, se poi devo fare 800 chilometri per trasportare la carta o il ferro o il vetro per poterlo riciclare, perché questo non... Chi è che deve farli gli impianti, però, per curiosità, scusi? La legge purtroppo su questo è molto complessa, e noi abbiamo la responsabilità della raccolta differenziata, cioè i comuni italiani hanno la responsabilità di organizzare sistemi di raccolta differenziata, poi questo lo fanno attraverso le ATO laddove costituite, è già il primo problema, e dove non sono costituite cosa succede? Ma la pianificazione impiantistica è un qualcosa di regionale e insomma, voglio dire, se nel Lazio la raccolta, insomma, i dati non sono positivi e in Sicilia non sono positivi, chi ha a mente un po' le questioni politiche, anche la cronaca, diciamo, degli ultimi anni, che lì non è stata fatta pianificazione, quando è stata fatta male, ecco. Quindi, città di Roma esporta i suoi rifiuti, la città di Napoli esporta all'estero i suoi rifiuti, perché sul territorio non sono stati fatti impianti. Noi siamo grandi esportatori di rifiuti e questo è una follia, perché se noi potessimo trattare questi rifiuti sul nostro territorio, sarebbero, non sarebbe più un costo, ma sarebbe un investimento sul territorio, sarebbero posti di lavoro e poi dal punto di vista ambientale sarebbe un qualcosa di assolutamente positivo. Certo. Senta, l'ultima cosa, lei prima diceva tentativi di revisione non organici, no? Che possono complicare le cose, ma pensiamo a un tentativo di revisione invece organico, là dove dovremmo andare a migliorare? Noi dovremmo andare, guardi, proprio qualche giorno fa sono intervenuto a un convegno interessante organizzato dal gruppo del PD al Senato, dal relatore del collegato ambientale. Ci sono alcuni temi che vanno affrontati. Primo fra tutti il principio di responsabilità del produttore, che deve essere meglio declinato. Secondo, il tema della proprietà del rifiuto. Terzo tema è come consentire alle aree cosiddette in ritardo di recuperare questo gap velocemente. Questo lo può fare solamente se vai a intervenire normativamente su alcuni aspetti procedurali, perché se noi ad esempio per la Sicilia ci immaginassimo raggiungere l'obiettivo del 50%, noi dobbiamo aspettare che la Regione Sicilia abbia determinato le autorità di ambito e le abbia fatte funzionare, e poi abbia fatto la programmazione impiantistica concordandola con gli enti locali, che poi queste autorità di ambito facciano i propri piani di ambito, che poi li mettano a gara e che poi assegnino le gare. Tutto questo fa 10-12 anni, quindi capisce bene che qui dobbiamo intervenire in qualche maniera. Un po' più rapidamente, certo. Senta, cosa vuol dire proprietà del rifiuto? Gli altri due li ho capiti, perché, diciamo, anche intuitivamente penso perché, che chi ascolta lo capisca. Perché 20 anni fa, se si ha in mente la definizione europea, rifiuto era qualcosa di cui mi dispo o ho l'obbligo di disfarmi o vorrei disfarmi, perché c'era il rifiuto, era un qualcosa di negativo, no? Chi se lo piglia il rifiuto. Oggi invece il rifiuto non è negativo, ma anzi è il valore che mette alla base l'Unione Europea per creare questa economia circolare. E io dico sempre che i rifiuti sono l'insperata ricchezza dei nostri territori urbani, che hanno un valore sul mercato importante, insomma, a livello europeo sono miliardi di euro, questo è dato importante. Allora, di chi sono questi rifiuti? Di chi li raccoglie? Di chi li produce? Di chi il valore di questi rifiuti? Di chi è? E questo è un tema che non è mai stato affrontato, non solo in Italia, ma neanche a livello europeo, e che oggi invece, secondo me, dovrebbe essere correttamente affrontato. E secondo me la direzione poi è solo quella di riconoscerne la titolarità, anche il diritto di proprietà, in capo ai comuni. Questo servirebbe ai comuni per valorizzare al massimo appunto la risorsa rifiuto e riportarla in tasca ai cittadini con una conseguente riduzione delle tariffe. Chiarissimo, beh, cambiata la prospettiva, è anche giusto cambiare. Prima non valevano, ora valgono, veramente. Dobbiamo cambiare le cose. Faccio tanta fatica a raccoglierli, a lavarli, stirarli e spedirli, vorrei anche avere il controvalore di questi rifiuti. Certo, certo. E ancora ringraziamo Filippo Bernocchi, delegato ANCI per Energia e Rifiuti, e andiamo alla conclusione. Abbiamo ancora un piccolo spazio per un contributo che arriva dall'Expo, che oggi chiuderà. Vi ricordo tra l'altro lo speciale di Radio 24 che sarà in onda dalle 18 alle 20, un contributo, dicevamo, che abbiamo raccolto alla AXA Forum, l'evento annuale istituzionale di AXA Italia, quindi parliamo di assicurazioni, svolto in collaborazione con ANIA e AXA Action Aid sul tema dei rischi emergenti per il pianeta e i suoi abitanti e il ruolo che possono avere le assicurazioni nella ricerca e nella assicurazione vera e propria del rischio. Ne abbiamo parlato con Isabella Falautano, che è direttore comunicazione ma anche direttore Corporate Responsibility and Public Affairs di AXA Italia. Il tema della ricerca è alla base anche del caposalto della prevenzione, che così grande importanza ha quando si affrontano temi lunghi come quelli dei cambiamenti climatici. Il cambiamento climatico non è un qualcosa che riusciamo anche a vedere oggi nell'immediato, è un qualcosa che si scaricherà soprattutto sulle generazioni a venire. Quindi c'è una complessità anche nell'affrontare non sotto emergenza il tema, che è proprio il punto di partenza anche delle nostre riflessioni come gruppo e delle nostre azioni. Quindi innanzitutto andiamo ad occuparci di supportare la migliore ricerca accademica applicata in varie istituzioni, in varie università internazionali, ce ne sono anche alcune italiane, quindi facendo dei bandi tramite l'AXA Research Fund, con il nostro veicolo che si occupa di ricerca sui rischi, che servono a supportare giovani ricercatori, cattedre piuttosto che progetti di ricerca su varie faglie di rischi. Una di queste è il rischio climatico, i rischi legati al cambiamento climatico, e di qui al 2018 avrà anche uno stanziamento cospicuo di circa 35 milioni di euro che verranno investiti proprio nel sostenere questo tipo di ricerche accademiche, di cui peraltro i ricercatori sono owner, nel senso che noi non abbiamo poi copyright o altro, è veramente una donazione filantropica per la ricerca, e questo è così importante anche in paesi come l'Italia, in cui sui temi lunghi e sulla ricerca forse si investe un po' pochino. Troppo poco, sicuramente troppo poco. E quindi questo è il primo passo, cioè cercare di aiutare la ricerca finanziandola, perché ovviamente è così che si fa, aiutare la ricerca per cercare di capire e prevenire quindi anche il rischio. Fatto questo, ovviamente si incassano i dati, diciamo, e c'è la seconda parte di lavoro, cioè su come poi dopo relazionarsi a questo tipo di rischio. Come fate? Le assicurazioni si occupano proprio... Ricordo, scusi, AXA è stata la prima che mi ha parlato di assicurarsi contro questo tipo di rischi. I rischi climatici, come anche i rischi collegati alle catastrofi naturali, no? Ci sono anche delle catastrofi naturali non connesse a rischi climatici, pensiamo ai terremoti, no? Certo. Sono senz'altro dei temi prioritari, perché poi quando ci sono certi accadimenti veramente si stravolgono le esistenze di persone, di imprese, ci sono enormi perdite economiche. Ogni anno in Italia per catastrofi naturali ci sono oltre 3 miliardi di euro di danni, di perdite economiche. A livello globale nel corso di un anno ci sono oltre 100 miliardi di perdite economiche, quindi parliamo di numeri molto importanti. E gli assicuratori sono anche quelli che possono caricarsi insieme allo Stato, che poi in fin dei conti è un assicuratore di prima istanza, di una parte di queste perdite per intervenire ex post e aiutare nel recupero, nella ricostruzione. Però non va dimenticata la fase altrettanto importante del prevenire. Alcuni rischi sono prevenibili e soprattutto nei contesti dei cambiamenti climatici, catastrofi naturali, molti dei danni gravi che si provocano derivano anche dai comportamenti umani, dal fatto di non rispettare le normative, di costruire una casa sul greto di un fiume e quant'altro. Quindi il comportamento umano è un qualcosa sul quale si può agire tramite la prevenzione e la sensibilizzazione delle persone. Quindi non solo dobbiamo pagare, supportare quando succede qualcosa, dobbiamo anche fare il nostro ruolo e la nostra attività nell'aiutare la cittadinanza a avere più sensibilità, che certe cose si possono prevenire, perché le vite umane poi si possono anche quotare, però non hanno valore, quindi è veramente importante prevenire certi danni gravi e rischi gravi. E ringraziamo anche Isabella Falautano. È davvero concluso il tempo a nostra disposizione. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.